Storiacce di Raffaella Calandra. Ci vuole coraggio a scappare in mongolfiera? Ci vuole coraggio a volare in cielo con tutta la famiglia per scappare verso non importa dove? Ci vuole coraggio a sfidare le armi dei soldati e le prigioni del regime per conquistarsi la libertà? Solo chi vive in una dittatura in realtà può capire quanto è facile invece avere coraggio. Bastano queste poche parole di Peter Strelsky per raccontare un mondo, il mondo di chi è costretto a vivere senza libertà ed è disposto a tutto pur di raggiungerla, il mondo in cui questo tedesco, oggi settantenne, decise di fuggire insieme a moglie e figli piccoli, un mondo fatto di spie, di controlli, di cortine di ferro e di muro, il mondo della DDA, dell'ex Germania dell'Est. Parte allora da Bornholmer Straße a Berlino, questa puntata di Storiacce, parte dal varco dove migliaia di persone uscirono per la notte in cui il muro cadde, il 9 novembre 1989. Parte da qui per raccontare la storia di una fuga verso la libertà. Nessuna paura. Non abbiamo avuto tempo per avere paura, anche nell'aria. Non abbiamo avuto paura. E quando siamo arrivati a terra, solo allora abbiamo pensato a cosa avevamo fatto e anche a cosa sarebbe potuto accadere. Mentre Berlino festeggia i 25 anni dalla caduta del muro, Peter Strelsky va indietro con la memoria di altri 10 anni fino a quel giorno, il 16 settembre del 79, in cui scapparono dalla DDA. Lui è uno di quelle migliaia di tedeschi che per anni hanno studiato il mare, l'acqua, calcolato ogni dettaglio e ogni elemento per pianificare la propria fuga dalla Germania dell'Est. Lui e sua moglie Doris sono tra quelli che ce l'hanno fatta, al contrario delle 138 persone che solo al Berlino hanno perso la vita mentre cercavano di scavalcare il muro. Oggi la voce di Peter è sottile e il suo passo incerto. All'epoca è stato uno dei protagonisti di una delle più incredibili fughe dall'Est e la loro storia è diventata anche un film, Night Crossing, Fuga per la Libertà. Loro, il loro pallone aerostatico e il loro coraggio sono divenuti dunque simboli del coraggio per la libertà. Io ho sempre detto che l'intero sistema stava cominciando a crollare quando Lech Walesa e Solidarnosc sono apparsi in Polonia. Era il 16 settembre del 1979. Noi siamo scappati dalla DDR col pallone, insieme ai nostri figli. E quel 9 novembre, quando già si vedeva la gente in strada, mi trovai a dire con un giornalista: stiamo andando verso la riunificazione della Germania. E in radio quello mi rispose: mi sa che hai bevuto troppo alcol. Ma noi avevamo bevuto solo caffè. Io avevo avuto ragione, poco tempo dopo eravamo tutti insieme. Irgendwie hatte ich doch damals recht gehabt oder was? Und kurze Zeit später brach alles zusammen. Peter, andiamo al giorno del grande volo, quasi 40 anni fa. Voi siete scappati dalla Turingia e dove siete arrivati in Baviera con la mongolfiera? Eravate sicuri di essere arrivati ad ovest? Wir sind in Neilach, das ist in Landkreis Hof. Noi col pallone siamo arrivati in Baviera. Quando siamo atterrati, in realtà non eravamo sicuri di essere davvero lì, ad ovest. Avevamo nascosto i bambini dietro a un cespuglio. Per primo sono uscito io e intorno a me quel paesaggio che vedevo non poteva darmi la sicurezza che ci trovassimo effettivamente fuori dalla DDR. Poco tempo dopo arriva un'auto della polizia. Prima di tutto era un Audi 80 e non potevamo che essere nell'ovest. Ma allora l'ho chiesto alla polizia. Siamo ad ovest? Gli ho detto. E lui mi ha risposto: naturalmente. Volevano portarmi dentro la macchina, ma io gli dissi di no. Mancano ancora altre 7 persone. Erano tutte nascoste. 8 noi, 2 poliziotti. In 10 nell'Audi. Non ci stavamo. Ma di sicuro quell'Audi 80 è rimasta per me il segno dell'Occidente. Il mio benvenuto ad ovest. Nessun Audi nella DDR, solo Trabant. Cosa ha pensato la polizia quando avete raccontato loro di essere arrivati lì con un pallone? Non ci avevano creduto. Sono dovuto andare con loro alla polizia. In mongolfiera con altre 7 persone in volo sopra la cortina di ferro. Ma non avete avuto paura? Paura che vi sparassero o paura che il pallone non funzionasse e precipitasse tutti a terra? Nessuna paura. Non abbiamo avuto tempo per avere paura, anche nell'aria. Non abbiamo avuto paura. E quando siamo arrivati a terra, solo allora abbiamo pensato a cosa avevamo fatto e anche a cosa sarebbe potuto accadere, ai pericoli, ad esempio. Durante il volo il pallone si era pure un po' bruciato, ma noi abbiamo spento subito la fiamma. Poi avevamo avuto problemi con una ventola che non funzionava bene. Quanto è durato il volo? Il volo è durato 28 minuti, circa 20 chilometri, e siamo arrivati fino a oltre 2000 metri d'altezza. La sera della partenza il tempo era perfetto, anche se freddo, e siamo arrivati fino a 10 gradi sotto zero. I nostri figli, quando abbiamo raccontato loro del pallone, hanno visto tutto questo come un'avventura. Io ho costruito da solo il pallone, tutte le sue parti. Il mio compagno di viaggio si procurò le parti meccaniche. La ventola era stata fatta da noi. Il barometro non funzionava bene. Un lanciafiamme avrebbe azionato il gas propano per far volare il pallone. E siete riusciti a fregare la famigerata Stasi, ma non vi hanno più controllato? Abbiamo 25 kg di carte della Stasi su di noi. Non ho nemmeno mai contato le pagine, sono troppe. Dopo la caduta del muro, con l'apertura anche degli archivi, ho potuto vedere tutto e avere la conferma che ci hanno sempre seguiti nei nostri spostamenti nella Germania Ovest. Ad esempio, ho visto che avevano controllato 800.000 ricette mediche, visto che mia moglie, dopo il primo volo, si era portata dietro dei medicamenti nel caso fossero stati necessari. Se ci avessero scoperto l'ultima volta, ci avrebbero tolto i bambini. In totale, 26 agenti della DDR si erano occupati solo di noi. Quando eravamo nella DDR, non avevamo avuto alcun problema con la Stasi, ma dopo il passaggio ad Ovest, siamo stati seguiti e controllati sempre. E poi ancora anche il piccolo ufficio che avevamo lasciato ad Est fu perquisito più volte, anche anni dopo la nostra fuga. Avete corso tanti rischi pur di fuggire. Dovevate essere davvero estremamente motivati per scappare a tutti i costi. Cosa vi spingeva soprattutto? Nella DDR non eravamo affamati. Questo lo devo dire, ma una delle cose peggiori la racconto subito, così capite cos'era la DDR. Mia moglie, suo fratello e altra gente volevano provare a raggiungere la Baviera dalla Cecoslovacchia. Arrivati lì, avevano chiesto a una signora dove fosse il confine. Poco dopo, lei e tutti gli altri erano in una caserma. Lei era incinta, ma non importava. Siamo stati interrogati da un funzionario e poi tutti siamo rimasti siamo stati interrogati da un funzionario e poi tutti siamo rimasti 20 mesi in prigione. E questo solo perché aveva fatto una domanda, per il solo fatto di aver chiesto dove fosse il confine. Questa era la DDR. Ecco, questo è cosa significa vivere in una dittatura. E forse bisogna ricordarlo più spesso, pensando anche a tutti quelli che scappano dai regimi tuttora esistenti in giro per il mondo. E anche per questo Storiacci ha voluto dedicare a loro questa puntata, nei giorni in cui il mondo intero ha riacceso le sue luci su Berlino e sulle ferite della sua storia. Ho incontrato Peter e Doris a Berlino nei giorni della festa, quando anche il loro pallone è diventato un'attrazione al museo del Checkpoint Charlie. La loro storia, anche grazie al film di Hollywood, è diventata una storia simbolo della ricerca della libertà, e loro sanno perfettamente che lo è tuttora, anche per chiunque ancora cerchi di scappare da una dittatura. Molti lo avevano fatto all'epoca con tunnel, altri con le cosiddette mucche di Troia, altri ancora calandosi da finestre o attraverso il mare. Molti alla fine sono stati uccisi e molti bambini di allora, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce, ancora cercano la loro famiglia separata da un muro. Storiacce. Il primo morì a Bernauer Strasse, laddove oggi si trova il Museo del Muro. Provò a superarlo pochi giorni dopo la sua costruzione, nell'agosto del 61. L'ultimo a cadere all'ombra della barriera che per 28 anni ha spaccato il cuore di Berlino fu invece Chris Gregory, 20 anni, e una sete di libertà che non poteva aspettare gli eventi. Fu ucciso 6 mesi prima che tutto finisse, prima che il muro crollasse insieme al regime comunista. Alla fine sono stati 5.075 i profughi della libertà, quelli che sono riusciti ad attraversare i 43 chilometri di cemento, di torri di controllo e di fortificazioni che spaccarono la capitale tedesca. 1.079 volte i militari della DDA aprirono il fuoco, 138 le vittime solo in città a Berlino. Per loro, nel 25esimo anniversario della caduta del muro, sono state lasciate rose nell'intercapedine di quelle pietre. E avevano messo in conto pure loro la possibilità di morire. La famiglia Strinsky, la famiglia di 5 persone che nel settembre 1979 scappò dalla DDA con una mongolfiera, insieme ad un'altra coppia e al loro bambino piccolo. E proprio per i figli, racconta ora Doris Strilsky, decidemmo di partire e di sfidare tutti i pericoli perché almeno loro, racconta, vivessero in libertà. Abbiamo riflettuto molto, abbiamo anche visto molte storie alla TV di fughe, sia di quelle finite bene che di quelle concluse tragicamente. E ci siamo detti, assolutamente, dobbiamo farlo anche noi, dobbiamo scappare. Ma attraverso l'acqua, la terra, in auto o treno, in 8 persone non saremmo mai riusciti. Ogni fuga è un rischio, lo sapevamo. Ma poi ci siamo detti che per noi l'unica era partire con un pallone aerostatico, una mongolfiera. Ci abbiamo provato 3 volte con 3 diversi palloni. Abbiamo studiato sui libri della biblioteca pubblica come far funzionare una mongolfiera. Poi ci siamo procurati materiali e plastica adatta, andando in giro per la DDR. Dicevamo che servivano per delle tende dei bambini. Col primo siamo tornati indietro, poi anche col secondo non ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a 200 metri dal confine e poi di nuovo costretti a fare marcia indietro. Quindi si ricominciava tutto, la ricerca di nuovo materiale, nuove stoffe, e poi doveva essere ancora più grande il pallone, perché nel frattempo si era unita anche un'altra famiglia. Eravamo diventati in 8. Ci siamo messi sotto, abbiamo trovato tutto e in 6 settimane il nuovo pallone era pronto. Ja, da haben wir damit angefangen, innerhalb von 6 Wochen war der dritte Ballon fertig. Per fare tutto questo e per correre così tanti rischi per un'avventura così dovevate essere estremamente determinati. L'ho chiesto anche a suo marito, cosa vi ha spinto più di tutto? Ja, aber wenn Sie jetzt so wollen, jeder der früher, dass er jetzt im Volevamo che i nostri bambini crescessero con la libertà, crescessero con la possibilità di conoscere il mondo e assaporarlo anche. A cominciare pure dai cibi. Quando qualcuno nell'est riceveva visite da gente dell'ovest che portava banane, albicocche, tutti i frutti che da noi non c'erano, o se qualcuno portava cibo italiano, noi non ne potevamo praticamente parlare. Non potevamo dire da dove arrivassero, perché lì noi e i nostri figli non potevamo andarci. Noi potevamo viaggiare solo verso est, e questo anche per eventuali altri progetti di fuga era fondamentale. C'era gente che ci aveva provato a superare il confine dalla Jugoslavia, ad esempio. Ma questo voleva dire andare verso la Polonia, che con Solidarnosc cominciava a dare segnali di cambiamento. Poi l'Ungheria, attraverso la Cecoslovacchia. E quindi, casomai, dalla Jugoslavia con qualche barca a cercare di attraversare il confine. Ma questa era roba da privilegiati, richiedeva permessi, era complicato e costoso. Per noi, normali cittadini, questa era una cosa impraticabile. Ich glaube, jeder, der irgendwie was machen will, ist verrückt. Come siete arrivati al giorno della partenza? Eravate in grado di usare la mongolfiera? Wir wollten auch, dass unsere Kinder auch irgendwie in der Freiheit aufwachsen. Avevamo fatto molti tentativi nel weekend prima di partire. Nel paese d'origine di mio marito c'era una zona di solo bosco, campagna e nessuna abitazione per chilometri. E noi lì abbiamo fatto varie prove per capire come usare il pallone. Nel fine settimana, perché i bambini dovevano andare a scuola. Ci eravamo detti che non potevamo semplicemente saltarci su e andare. Dovevamo essere certi di riuscire. E poi c'era sempre la variabile tempo. Con la pioggia, la neve o col tempo cattivo non si poteva fare niente. E per questo è durata mezzo anno l'intera preparazione della fuga, prima che non ci dicessimo, ok, siamo pronti, siamo 8 e possiamo farcela. E avevamo deciso di portarci del pane. E poi avevamo bisogno di fortuna. Che cosa ha rappresentato per voi il muro? Quando il muro è stato costruito, intere famiglie sono state distrutte e separate. Bambini che non potevano viaggiare e andare a trovare i familiari. Quando moriva qualcuno, non potevano andare a dare l'ultimo saluto alla madre, al padre. E molti bambini sono anche spariti, poi adottati. E ancora oggi molte persone cercano i loro figli. E quando il muro è caduto, semplicemente è stata una cosa pazzesca. E spero che si vada avanti e si superino anche le difficoltà che ancora ci sono. E il crollo del muro? Dove eravate quel 9 novembre dell'89? Il 9 novembre del 1989 eravamo a casa, a Rheinfeld. Abbiamo seguito dalla televisione quello che stava succedendo. Subito le trasmissioni avevano cominciato a mostrare solo immagini del muro e non si riusciva a capire cosa sarebbe successo. Tutto era così nuovo ed era un'emozione così incredibile. La gente che cominciò ad andare in strada, tutto era così nuovo. E quello per noi ha significato la possibilità di lavorare, viaggiare, guadagnare. Tutto nuovo. Alla fine però siete tornati a vivere ad Est, ora che la Germania è riunificata. Noi siamo felici di essere tornati là dove eravamo, ad Est, diciamo così. Anche se ormai non c'è più quell'Est. Ma non so se davvero loro ci vogliono. Solo una volta siamo stati invitati a raccontare la nostra storia in una scuola. Il direttore ha ricevuto poi molte lamentele, perché si dava troppo spazio a dei fuggiaschi. La miglior sintesi di questa storia straordinaria sono ancora una volta le parole dei protagonisti. Solo chi vive in una dittatura capisce quanto è facile avere coraggio. Di voli impossibili parla già anche la mitologia classica e siamo allora arrivati al nostro appuntamento settimanale con le storie senza tempo e con Giorgio Geranò, professore di greco all'Università di Trento e autore per Sonzogno di libri sugli dèi e gli eroi del mito. Mitiche storiacce. Volare via, verso la libertà. Era successo anche nel mito greco. C'era un altro muro da superare, quello del labirinto, dove il crudele Minosse, re di Creta, aveva rinchiuso l'architetto Dedalo con suo figlio Icaro. Dedalo era un artefice supremo, un inventore magico. Lui stesso aveva progettato il labirinto ed era capace di risolvere qualsiasi rompicapo. Trovò la via per una fuga che sembrava impossibile. Plasmare ali di cera e applicarle sulle spalle sue e di suo figlio. Si sa come andò a finire. I due volarono via dal labirinto, ma Icaro, incosciente come tutti i ragazzi, si avvicinò troppo al sole. Le sue ali di cera si sciolsero e precipitò nel mare. Una morte infelice, un destino interrotto tra le onde dell'Egeo, proprio dove ora sorge l'isola di Caria, che ha preso il nome dal ragazzo morto. Ma spostiamoci avanti di qualche millennio. Siamo nell'Ottocento. I greci combattono con coraggio contro i turchi per la loro indipendenza. E un poeta si ricorda di Icaro. Il poeta e patriota greco si chiamava Andreas Calvos. Il suo nome non vi dirà nulla, ma era un amico di Ugo Foscolo, nato anche lui nell'isola di Zacinto. Anzi, per molto tempo, finché i due non litigarono, Calvos fu il segretario di Foscolo. «È la libertà che ha messo le ali a Icaro», scrive Calvos. «È caduto, ma è caduto dall'alto, ed è morto da uomo libero». «Siamo tutti Icaro», dice insomma il poeta, «noi greci che rischiamo la vita per ribellarci alla tirannia del sultano». E così la mitica storiaccia del ragazzo annegato tra le onde diventa la bandiera di chi vuole volare in alto con le ali della libertà. Grazie dunque a Giorgio Geranò. In chiusura la segnalazione è una mail da Maria Cristiana Cavalli da Buonporto. Ci ricorda cosa significhi subire un'alluvione. Dice: «Io non ho più niente, ci pensi quando cerca i vestiti, io non li ho più». Poche parole, ma estremamente significative ed estremamente dolorose. per farci avere anche voi le vostre segnalazioni sui disservizi, sulle vostre storie, o meglio sulle vostre storiacce, su quello che non funziona lì da voi, scrivetemi una mail a rcalandra@radio24.it oppure su Facebook alla pagina di Storiacce, ricordate Storiacce, o su Twitter mi trovate all'account Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!